Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Un tempo, nelle terre ora raggiunte dal segnale della nostra radio, abitava un popolo misterioso. Quegli uomini e quelle donne si chiamavano Euganei e avevano i loro principali insediamenti, non serve nemmeno sottolinearlo, nella zona collinare a sud di Padova. Dopo gli Euganei, però, arrivarono dall'Europa dell'Est anche i Veneti, ma poi arrivarono anche i Romani, poi dall'Europa centrale i Longobardi, poi dal nord della Francia i Franchi, poi i Bizantini, decine e decine di popoli, molto diversi di volta in volta questi nuovi abitanti. Chi è arrivato qui alla testa di potenti eserciti per reclamare un bottino, chi è venuto in questa terra accogliente con pochi stracci, armato solo di speranza per cercare di sopravvivere con il suo onesto lavoro. Le culture si sono via via mescolate, il sangue si è mescolato, la lingua persino. E tutto questo ha dato origine, con la sua storia, le sue tradizioni plurimillenarie e persino con la sua mentalità particolare, al Veneto che conosciamo oggi. Senza, insomma, l'immigrazione, gli Euganei, senza mancare di rispetto a nessuno, con tutta la loro buona volontà, non avrebbero mai trasformato queste terre in una delle regioni più avanzate d'Europa. E dopo un centinaio d'anni, a cavallo tra 800 e 900, in cui dal Veneto la gente emigrava per cercare fortuna altrove, il trend si è invertito. E si può dire che una buona parte del segreto del cosiddetto miracolo nord-est sia dovuto alle mani operose di migliaia e migliaia di immigrati provenienti da tutte le parti del mondo. Ma chi sono gli immigrati nel Veneto del 2012? È giusto definire ancora immigrato anche nati in Italia, che possono chiamare solo queste terre come patria, anche se privi di diritto di cittadinanza solo perché figli di immigrati? Qual è ancora il loro ruolo nel tessuto della nostra società? Viene in nostro soccorso il dossier statistico Immigrazione 2012, presentato nel giovedì della settimana scorsa a Padova, a cura della Caritas diocesana e dell'Associazione Migranti Olluns. Cosa ha da dirci questo studio? Dalla Caritas in Veritate di Papa Benedetto XVI. Il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno sociale di natura epocale, che richiede una forte e lungimirante politica di cooperazione internazionale per essere adeguatamente affrontato. Tale politica va sviluppata a partire da una stretta collaborazione tra i paesi da cui partono i migranti e i paesi in cui arrivano. Nessun paese da solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi migratori del nostro tempo. Tutti siamo testimoni del carico di sofferenza, di disagio e di aspirazioni che accompagna i flussi migratori. Il fenomeno, come è noto, è di gestione complessa. Resta tuttavia accertato che i lavoratori stranieri, nonostante le difficoltà connesse con la loro integrazione, recano un contributo significativo allo sviluppo economico del paese ospite con il loro lavoro, oltre che a quello del paese d'origine grazie alle rimesse finanziarie. Ovviamente tali lavoratori non possono essere considerati come una merce o una mera forza lavoro. Non devono quindi essere trattati come qualsiasi altro fattore di produzione. Ogni migrante è una persona umana che, in quanto tale, possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione. È con noi Roberto Babetto, direttore dell'Associazione Migranti Onlus. Grazie per essere con noi, Babetto. Grazie e buonasera a tutti. Ecco, prima di entrare nello specifico del dossier, rimaniamo sulle parole del Papa nella Caritas in Veritate. Cosa le dicono? Mi dicono innanzitutto, mi fanno pensare, milioni di persone sono coinvolte nel fenomeno delle migrazioni e queste non sono numeri come abbiamo evidenziato alla presentazione del dossier Caritas Migranti, ma siamo di fronte a volti di uomini, donne, bambini, giovani, anziani che cercano un luogo dove vivere in pace. È per questo che i cristiani, secondo me, devono farsi promotori in primo luogo del riconoscimento dei diritti delle persone, indipendentemente dalla loro origine. Inoltre devono però promuovere allo stesso tempo e sostenere la responsabilità sociale anche dei nuovi cittadini provenienti da altri paesi, attraverso un'integrazione che deve essere responsabile e responsabilizzata. Sono necessari, per esempio, ridefinire i termini delle regolarizzazioni, di condurre procedure sensate, efficienti, oserei dire quasi umani, soprattutto nei tempi burocratici. In fondo, favorire l'integrazione degli immigrati è la via più promettente per realizzare una convivenza serena e che giovi al bene comune, che è patrimonio di tutti noi. Ecco, dopo torneremo magari anche più nello specifico su questi diritti degli immigrati e sulle varie leggi che si sono state, che hanno tentato di fare anche negli ultimi anni. Però ecco, certo, torniamo allo specifico del dossier presentato giovedì scorso a Padova. Il dato più che emerge di più, insomma, il dato con cui hanno titolato i giornali. Sì, che le migrazioni sono un fenomeno inevitabile, è un mondo che ormai conosciamo tutti, attraversato da crisi politiche, economiche e segnato dalla diseguaglianza della distribuzione della ricchezza, è inevitabile questo tipo di fenomeno. Ciò si evidenzia anche nell'aumento dei profughi, come è confermato nelle ultime proiezioni, e dai dati che ci danno 214 milioni di migranti nel mondo. Per arrivare a alcuni dati del dossier Caritas, sono 554.000 i presenti in Veneto, abbiamo il 16,9% della popolazione e i permessi di lunga durata sono circa 250.000. Il dossier mette in evidenza una maggiore vulnerabilità dei migranti alla perdita del lavoro come prima cosa, una crescente presenza di figli di migranti nelle scuole e che i nuovi cittadini migrati rimangono più a lungo del previsto e del loro progetto di vita, cioè tutti partono da un progetto di temporaneità che poi si trasforma in stabilità. Ecco, l'aumento c'è stato anche in quest'anno, in questi ultimi due anni, nonostante la crisi che colpisce chiaramente gli italiani, ma forse colpisce ancora di più li chiamo a volte i nuovi italiani, a volte sono solo immigrati, a volte qualcosa di più. Ecco, sono aumentati, come sono rispetto agli scorsi anni? Allora, abbiamo avuto una decrescita del flusso dei cittadini stranieri, questo è dovuto anche dalla crisi, abbiamo meno 1930 circa immigrati lavoratori quest'anno e quindi c'è per la prima volta una flessione del numero degli stranieri presenti. Ecco, quindi sono diminuiti o sono venuti di meno? Sono venuti di meno. Ecco, forse le nostre terre non sono più promettenti come un tempo. Ci fermiamo qualche istante, Babetto, e torniamo tra pochissimo dopo una pausa. Il bene di tutti. Parliamone. Che bussa al tuo cuore, che ti sale alla testa in ascensore, che ti chiama, ama, ama, dalle scale e ti va nel centro emozionale. Abita in te questo amore, abita in te. E adesso scalderà l'interno il sole dopo un lungo inverno. Non sarai solo con te stesso, perché qualcuno adesso abita in te. L'armadio, il tuo sapone, la tua radio, la parte morbida del letto e dormirai più stretto. Abita in te, sempre più, sempre più, sempre più. Va su e giù, le cane rotole, i tuoi segreti, corridoi, s'affaccia dai tuoi occhi e poi sale con la mano nelle stanze della mente. Suona il piano e aprirà, chiuderà, aprirà, chiuderà l'acqua in bagno. Ci sarà, sarà. quando sensualmente ti stai spogliando. Perché abita in te, abita in te, abita in te. Gli darai la chiave, così potrà sempre rientrare e starai sveglio quando è fuori, e se non torna muori. Abita in te, in questi tempi trovar casa sta diventando un'impresa, e c'è più di una porta chiusa, ma l'anima si è schiusa. Abita in te, sempre più, sempre più, sempre più. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al Bene di Tutti Parliamone. Siamo in collegamento con Roberto Babetto, direttore dell'associazione Migranti Onlus. La scorsa settimana a Padova è stato presentato un dossier sullo stato dell'immigrazione nelle nostre terre. Ne stiamo appunto parlando con il direttore. E grazie per essere con noi. Grazie a tutti di nuovo. Ecco, lei prima ha parlato di diritti degli immigrati e di necessità di regolamentazioni. Ecco, parliamo delle cosiddette seconde generazioni, i figli degli immigrati, quelli arrivati tanti anni fa, insomma, che nati in Italia da genitori non italiani sono ancora privi di ogni diritto di cittadinanza. Ecco, all'inizio legislatura i parlamentari Sarubi del PD e Granata, prima del PDL e poi di Futura Libertà, ci hanno provato con un disegno di legge. Questa richiesta l'ha chiesta anche il presidente Napolitano più volte, e anche la settimana sociale dei cattolici due anni fa, nel 2010, si è conclusa con questa istanza. Ecco, ormai la legislatura è quasi al termine. Cosa è mancato alla politica per non essere stata in grado di compiere questa scelta da più parti richiesta? Sì, qualche tempo fa c'è stata anche una campagna, l'Italia sono anch'io, al quale ha aderito la Caritas, la mia associazione, proprio su questa situazione, per spingere opinione pubblica e politici per prendere atto che la nostra società di fatto è cambiata e che con questo comporta delle nuove regole sulla cittadinanza. Alla fine di questa campagna però di fatto dobbiamo registrare che è calato il silenzio. Vuoi da un lato la crisi economica che si è fatta sentire, che ha occupato altri temi, vuoi perché questo tema non ripaga politicamente i politici in termini di voti e quindi non si è più mosso nulla. La realtà invece è pressante, pesante, molti ragazzi giovani figli di immigrati rischiano di rimanere ai margini della nostra società. Voglio ricordare che la crisi economica non deve essere un pretesto per ritardare la modifica delle leggi sulla cittadinanza, perché la crisi economica secondo me non si risolve solo regolando nuove norme sull'impresa, il lavoro, la riduzione delle tasse, ma anche la costruzione di una società coesa e armonica con tutte le sue parti, con tutte le sue espressioni. I figli degli immigrati, i nuovi italiani, devono sentirsi parte di questa società anche attraverso il riconoscimento della loro cittadinanza. Ecco, non so se si ricorda Sanremo un anno fa, due anni fa, con Toto Cutugno, alla fine tutti questi ragazzi, 15, 16, 17 anni, a cantare Sono un italiano. È stato veramente, credo, commovente, almeno io mi sono commosso. Certo, senta, sì. Com'è la situazione economica degli immigrati adesso? La crisi sta colpendo, lei prima ha detto che con la crisi si è ridotto il flusso migratorio, sta colpendo anche il mondo dell'immigrazione, anche se voglio dire ci sono state anche delle nuove realtà nate proprio grazie agli immigrati. Esatto, partiamo da un dato del dossier Caritas, che sono circa 345.000 gli occupati in Veneto, il 17,8% della popolazione dei lavoratori occupati, ma che però abbiamo registrato un saldo negativo di quasi 7.000 unità. Ciò ci fa evincere che le prime vittime della crisi economica sono di fatto i lavoratori migranti. È quanto emerge anche nell'ultimo rapporto dell'OCSE, in tema appunto di migrazione, basti pensare che per oltre 30 anni infatti quello migratorio è stato un fenomeno in costante crescita, quasi esponenziale. Oggi invece abbiamo la controtendenza e ciò ci fa pensare che mettere al primo posto i migranti nella crisi economica è ciò che sta avvenendo. I primi paesi a registrare appunto tutta questa difficoltà sono stati quelli più esposti alla crisi, quali il Portogallo, l'Italia, ma anche l'Inghilterra. E va registrato e registriamo che i datori di lavoro sono sempre più reticenti ad assumere gli immigrati e sono i primi gli immigrati stessi ad essere licenziati. Ecco, questo dato ci fa riflettere, ecco, poniamo il caso, lei il prossimo anno diventa ministro, quali sono le politiche di integrazione, le prime politiche di integrazione che metterebbe in atto per gli immigrati chiaramente? Allora, il quadro socio-statistico rilevato anche dal dossier mi aiuterebbe in questo caso, perché sollecita l'adozione di misure in grado di raggiungere obiettivi quali il recupero di tutto il sommerso, la qualificazione dei nuovi cittadini, come abbiamo già detto, la stabilizzazione del loro soggiorno e la semplificazione della burocrazia, i costi dei rinnovi dei permessi di soggiorno che già in una situazione di crisi pressano, ecco, i nostri migranti. Ricordiamolo. Queste sono, sono indubbiamente le cose che potrebbero dare una mano. Senta, abbiamo parlato di società civile, abbiamo parlato di tessuto economico. Ecco, vogliamo concludere parlando di Chiesa. La Chiesa, l'associazionismo cattolico, che contributo ha portato, sta portando o potrebbe apportare ancora di più? Io penso, banalmente mi inserisco, penso anche ai patronati, alle realtà vive, magari dove, che sono il primo incontro con la nostra cultura, con la nostra realtà, che hanno degli immigrati che magari nemmeno sanno la nostra lingua. Sì, in particolare su questo ci viene aiuto un santo popolare della nostra tradizione, che è Sant'Antonio da Padova, e ci dice che chi è pieno di Spirito Santo parla in diverse lingue. Le diverse lingue sono le varie testimonianze su Cristo, ma la testimonianza e la parola deve essere trasformata in opera, e come dice lei, i cristiani oggi sono chiamati ad operare nel concreto, nel quotidiano, con semplici azioni, ma con grande efficacia nella vita di tutti. In fondo l'integrazione è ciò che ci porta al bene comune. Ecco, abbiamo ancora 30 secondi, come vede per il futuro, come vede anche magari dentro una l'immigrazione, anche dentro una realtà europea più unita, più insieme, insomma, dove le genti si muovono e quindi non solamente immigrati, ma ecco, come si può condividere come Unione Europea questa questione? Sì, è necessario condividere con l'Unione Europea, anche Napolitano lo ricordava recentemente, il fenomeno migratorio. Nessun Stato può agire da solo, ma solo all'unisono e a politiche comuni si può far fronte a questo fenomeno importante che è le basi e il futuro della società. Ecco, va bene, Babetto, io la ringrazio e auspichiamo insomma che nei prossimi anni, magari nella prossima legislatura, finalmente, diciamo, ecco, che la Sarrubi Granata veda la luce e qualcosa di più magari per questi che sono comunque, per chi crede, anche dei fratelli oltre che degli esseri umani come noi. Grazie Babetto per essere stato con noi. Grazie a tutti e buonasera a tutti. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima sulle frequenze di Blue Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, potete contattarci mandandoci mail per un suggerimento, un consiglio a redazione@blueradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato? Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.